sono le ore 21:48 di martedì 27 agosto 2024. Il tipico rombo smarmittato della minicar che sfreccia per le strade della Loggiata ci introduce a questa chiacchierata, a questa registrazione dopo parecchi giorni di silenzio, ma insomma ormai agosto è davvero una forma di estate nucleare anche dal punto di vista delle idee, e anche questo podcast evidentemente non fa eccezione. Come lontanamente promesso sul canale Telegram, se c'è qualche appunto che vorrei lasciare qui, riguarda ancora il tema del museo, che è forse l'unica cosa che sono riuscito ad approfondire in questi giorni. Anche al mare, sono riuscito ad andare al mare, non molto lontano, ma va benissimo così, lo prendo come un regalo. Grazie soprattutto a questo libro che ho iniziato finalmente a leggere, una raccolta di saggi curata da Giorgio De Finis, che, come ricorderete, è stato direttore artistico del Macro Asilo. Una raccolta di saggi, dicevo, intitolata Museo, teorie pratiche politiche, edito da Bordeaux Edizioni. Forse dal punto di vista strettamente indicativo della qualità del prodotto editoriale, ecco, forse non è un libro particolarmente curato. È un libro un po' disordinato perché i contributi sono raccolti in modo disorganico. C'è anche verso la fine un mio piccolo contributo, ma mi interessava leggere naturalmente tutti gli altri. E la cosa più interessante, al di là di questa specie di sondaggio tra esperti e comunque frequentatori del mondo della produzione culturale, per me è stata l'occasione di approfondire tutte le pratiche, tutte le case study dei musei che cercano di essere qualcosa di nuovo e di diverso dall'idea tradizionale, cioè di un palazzo dove quando entri c'è qualcuno che ti dice ciò che è rilevante per lui e poi esci e torni e dovresti meditare fuori dal palazzo sul privilegio che hai avuto nel gettarti all'interno dell'unico percorso che ti viene imposto dall'alto. Ecco, questa idea ormai è ampiamente e largamente superata anche dalle definizioni dell'ICOM più recenti, è stata però poi superata dai fatti in realtà solo da pochi musei nel mondo, e il libro li cita tutti, anche scovando quelli che io neanche conoscevo. Quindi è un libro che ho letto, però poi con l'altra mano andavo sui siti di questi musei a capire esattamente cosa succedeva, andavo a iscrivermi ai canali, non tanto YouTube, soprattutto Vimeo, perché la cosa bella è che tra gli addetti alla produzione museale culturale ormai è invalsa l'abitudine a scavalcare tutto l'ecosistema di YouTube con le sue pubblicità, con le sue pratiche estrattive dei nostri dati, e gettarsi nelle mani di un'altra piattaforma che è appunto Vimeo, che è forse un po' più rispettosa del contenuto. Difficilmente sarai infastidito da qualcosa quando sei su Vimeo. Infatti Google gli sta facendo la guerra, tant'è che, per intenderci, l'applicazione di Vimeo per Android TV non esiste. Chiusa la parentesi polemica, sì, mi sono iscritto a tutti questi canali di questi musei, sì, ho visto i siti, ho visto i progetti, ho visto soprattutto gli archivi, che sono il mio vecchio pallino, come sono organizzati. Anche qui c'è sempre dietro un pensiero abbastanza disorganico. C'è chi pensa, per esempio, che tutti i cataloghi out of print debbano essere scaricabili liberamente in PDF, i cosiddetti fuori stampa, come fanno non gli ultimi arrivati, ma i curatori del MoMA. E ci sono invece quelli che pensano che debba essere tutto un grande shop, un grande negozio, che non ci sia una sola cosa di questi siti che non inviti a comprare cultura, a comprare esperienze, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che se davvero dobbiamo uscire dall'idea di superata di museo, dobbiamo anche cominciare a pensare che la cultura crei valore senza necessariamente dover appartenere a un mercato. E l'unico tipo di spesa che sono disposto a giustificare è quella appunto per rimborsare i costi di gestione di un'infrastruttura, compreso naturalmente il personale che svolge un lavoro. Molto spesso anche il lavoro delle istituzioni private è molto sottopagato, preferisco mille volte contribuire alle spese di un museo pubblico, dove paradossalmente l'addetto potrebbe persino essere più tutelato. Tutto questo per arrivare a che cosa? E qui cerco di sostanziare, di mantenere la promessa di quell'appunto bibliografico che ho lasciato su Telegram, per arrivare al futuro del macro. Dopo il macro asilo di De Finis, rivoluzionario, disintermediato, gratuito, ospitale soprattutto verso tutti, artisti, pubblico, creativi, non creativi, c'è stato il progetto di Lopinto, su cui ho speso qualche parola. Francamente credo che il lavoro di Lopinto vada largamente elogiato, considerati i mezzi che aveva a disposizione. Ha svolto molto bene il suo compito, però sicuramente non ha riportato il pubblico al macro, perché non poteva essere quello il modo. Del resto c'è una tale distanza ormai in generale tra tutto ciò che è definito e descritto come arte contemporanea e la stragrande maggioranza del pubblico, che se davvero non crei qualcosa di rompente è difficile che le persone vengano ad abitare il tuo museo, anche se sostieni che sia uno spazio pubblico. Alla fine sei costretto anche a far pagare, come è successo di recente al macro negli ultimi mesi, appunto, della gestione in corso, che è ormai agli sgoccioli, il museo dell'immaginazione preventiva. Il futuro, si diceva, sono stati pubblicati i bandi, uno per docenti universitari, per partecipare alla selezione del futuro progetto, e poi l'altro bando, quello più importante, appunto, per la direzione artistica del prossimo, non ho capito se biennio o triennio, non importa, si comincia le prime settimane del 2025, c'è ancora tempo, credo, fino ai primi di settembre per proporre le proprie idee. A parole il bando sembra cercare qualcuno che sappia mettere insieme il buono degli ultimi due progetti, quindi il progetto ospitale inclusivo, aperto, gratuito, con una forte anche, diciamo, vocazione sociale di De Finis, e poi quello più, diciamo così, curato nella forma proprio del prodotto editoriale, come di fatto era ed è tuttora il macro in questi mesi, cioè una sorta di magazine che si sfoglia con delle rubriche rese plasticamente dalle stanze del macro. Le stanze hanno sempre un ruolo evidentemente normativo, sembrano raccontare quello che deve succederci dentro. Questa forse è la più importante vittoria di Odile Deck, che ristrutturò i locali ormai più di 10 anni fa. In mente, attraverso una fitta boscaglia dalla quale giungono le grida un po' fastidiose dei pappagallini che la abitano, provo a immaginare appunto in che modo si potrebbe tirar fuori il meglio e dare un ruolo anche, ancora una volta, plastico alla divisione architetturale del macro di Odile Deck, no? Dove c'è questa zona che era il vecchio autoparco della birreria Peroni, e poi tutta l'ala nuova su via Nizza, con questi spazi molto più grandi, la sala ex Enel, l'auditorium, è la zona dove oggi c'è la mostra Retro Futuro, che è un altro importante spazio espositivo. Ma io, se provassi a cogliere un qualche suggerimento dal luogo, a interpretare quindi il genus loci del macro di Vienizia e di via Reggio Emilia, direi forse il DEC ha voluto dirci che c'è una parte davvero aperta al dialogo con la città, un po' come il macro asilo, che è quella che dà su via Reggio Emilia, con degli spazi forse un po' più piccoli, un po' meno autoreferenziali, comunque anche spazi di economia circolare, perché appunto si tratta di ridestinare a un nuovo uso quello che era uno stabilimento industriale. E poi invece c'è la grande dichiarazione, anche architettonica e forse anche urbanistica, del lato che dà su via Nizza, con queste vetrate, con questi colori molto forti, che contrastano sicuramente con l'altra parte che è un po' più grigia. Quindi chissà, forse si potrebbe fare di nuovo qualcosa di molto molto abitato, plurale, non intermediato, non troppo curato, nella zona su via Reggio Emilia, i tre piani dell'ex stabilimento Peroni, magari fino per gli eventi estivi, fino a comprendere la terrazza, e invece destinare la grande sala Enel, l'auditorium, le zone espositive un po' più ufficiali al museo curato, magari anche con l'aiuto di qualche privato, perché chissà, potrebbe arrivare qualcuno a raccogliere l'eredità dell'Enel e a farci capire che magari può essere virtuosa persino la collaborazione con un'azienda, con una grande azienda che ha una visione che per l'Italia, per il futuro, chi lo sa, per il nostro patrimonio culturale, perché no? E queste sono le idee che ho lasciato anche in questo post che ho scritto su Substack, di cui trovate il link su Telegram. È passato un po' di tempo, chissà se sono fermentate delle idee, delle risposte. Se le avete, fatemi sapere, perché è qualcosa che mi interessa molto.